sotto una luna sempre presente. Veglio la notte pensando a te. Ora che il vento si è fatto assente, sceso il silenzio attorno a me. Ascolto il mio cuore a un battito lento. Sono sereno pensando a te. È un'attesa, ad un tratto lo sento. Non c'è mai emozione senza un perché. Rosa e rossa l'aurora si incendia nel cielo scacciando le ombre occidente. Rosa e rossa l'aurora mi spiega il suo velo contando la luce d'oriente. Sale nell'alba un desiderio ed un perché. E dopo l'alba sarò assieme a te. Rosa e rossa l'aurora si tinge nel cielo scacciando il dolore occidente. Rosa e rossa l'aurora allunga il suo velo portando la luce d'oriente. Sale nell'alba desiderio. Sale nell'alba un desiderio.